che non brucia mai, mi consuma, mi inquini il cuore, sai, con il tuo siero della vanità. Tu mi turbi, mi rubi l'anima, adesso il tempo qui si annullerà. E ti consumi come la plastica sul fuoco sacro delle verità. Sul fuoco sacro delle verità.